Capitolo 2. Una pistola giocattolo. 5 settembre 2018. Giardino incantato. In fondo, sto ancora scappando. In fondo, la sicurezza che sento quando penso al mio futuro e al come lo voglio vivere se ne va proprio nell'incoscienza dei sogni notturni. Forse stiamo costantemente correndo, ciechi, verso degli orizzonti sconosciuti. Nella descrizione della mia vita, senza scarpe e senza troppe necessità, mi ripetono con una voce saggia di chi conosce bene il mondo: «Senza soldi non si vive! Pensa al domani, pensa alle malattie, agli incidenti, alla morte!» Con una serie infinita di disgrazie possibili, che potrebbero forse accadere tra adesso e l'eternità. Sarà come dicono loro. Sarà che io faccio una vita forse un poco naif a prima vista, o forse da hippie fuori tempo. Ecco, nel presente in cui vivo, sono una donna celibe, o single, o zitella per alcuni ben pensanti. Vivo da sola, circondata da gatti che non sono i miei. E di ritmi latini li ascolto dal vivo. Nella sala da ballo di qui, quando si organizzano i concerti e la notte passa veloce tra un tentativo di ballare la salsa sbagliando tutti i passi e le chiacchiere sulla vita, con i nuovi amici, i dialoghi che poi finiscono albeggiando sulla spiaggia deserta. Il figlio della vicina ha 3 anni, si chiama René e possiede una saggezza da sciamano che di vite ne ha già vissute molte. Passiamo i lunghi afosi pomeriggi ascoltando musica e giocando nella mia cabagna. Lui mi racconta le storie fantastiche degli uomini giganti che arriveranno dal mare per sottomettere noi piccoli umani. Poi balla e saltando sul letto ride e ride ancora. Gracias. Querías decir ciao, mi padre? Però mirando a chi, per favore. A chi? C'è Giovanni. Attraverso i suoi occhi, tutto sembra essere facile. Ma quando accade che ci complichiamo tanto la vita da creare questa fitta serie di inganni, ricatti e bugie che ci intrappolano per anni? Cominciamo copiando le azioni dai nostri genitori. Le ripetiamo, nonostante sia tutta la vita che vediamo che non funzionano. Cresciamo e costantemente ci viene detto che dobbiamo riuscire ad essere meglio di loro, un giorno. Nella società questo significa avere successo. Casa, auto, lavoro, fama, un mese di vacanza all'anno per conoscere il mondo intero. Diego, papà elefante! Diego, papà elefante! Diego, papà elefante! Per molti amici che ho lasciato nella terra natia, io sono un disertore. Sarei dovuta rimanere a combattere una guerra immaginaria, fatta di lavoro sottopagato da schiava volontaria, per guadagnare quel tanto che mi serviva per sopravvivere con scatolette di tonno e pasta di sottomarca. Per poter pagare le tasse, le multe sulle tasse che il commercialista aveva dimenticato di dichiarare, le bollette impazzite, la benzina e il bollo della macchina, le multe con l'autovelox sul rettilineo per andare al lavoro. Lo shopping compulsivo nel negozio dei cinesi la domenica pomeriggio al centro commerciale. E l'aperitivo del sabato sera con gli amici al ponte, sorseggiando degli spritz e parlando del maltempo e del freddo che fa. Con la gente che racconta degli ultimi viaggi in questo o in quel paese del terzo mondo, proprio lì, dove ci sono quelle persone di colore che si mettono ancora l'osso nel naso. Non ricordo il nome, ma c'è un documentario su YouTube, poi ti passo il link. E mentre il sole tramonta sul fiume, che scorre lento e placido, al passaggio dei camerieri che servono le patatine e i cocktail ai tavolini del bar. Non era la mia guerra, non era il mio successo. E mentre guardo René giocare con le automobiline che si rincorrono sulla sabbia, tra una gallina che scappa spaventata e il gatto ciuccio che osserva attento i movimenti tutto attorno, mi rendo conto che il successo per questo bambino sarà trovare la propria felicità. Bevo un caffè con Rosy, sua madre. Mi racconta di come questo bambino sia arrivato inatteso ai 42 anni, con un uomo violento del quale lei era perdutamente innamorata. Ha deciso di andarsene una notte di pioggia, con il pancione all'ultimo mese. Lui era uscito di nuovo con gli amici a bere e lei lo sapeva che poi sarebbe tornato ubriaco, violento. Sento un brivido, di freddo e di dolore, ogni volta che vivo e rivivo la mia storia in quella delle altre donne che qui incontro. Ci ascoltiamo e ci abbracciamo a lungo. Non ci sono classi sociali, non ci sono continenti né primo o terzo mondo per vivere la violenza nella propria vita. Mi siedo sulla porta della mia cabagna a guardare gli alberi che lasciano cadere le prime foglie e le galline che richiamano i pulcini dicendo loro che è ora di andare a dormire. Il gatto nero, Satanas, con la pelle tigrata dai mille combattimenti notturni, li osserva poco lontano. Si lecca i baffi, pronto a saltare sul pulcino più piccolo, che corre piano e pigola sempre. Arriva la musica di un corrido da una grande cassa che suona nella casa degli altri vicini, quelli oltre il filo spinato. Loro sono in due, vivono nella piccola costruzione di cemento, bianca e spoglia, con un letto matrimoniale sotto la tettoia. Il capo lo chiamano il Civo. È uno spacciatore che vende i suoi prodotti al dettaglio ai piccoli consumatori e ai piccoli ciarlatani. Ma vende anche ai pescatori, ai padroni dei ristoranti e ai miei amici, proprio quelli che conosco da sempre. Alcune volte alla settimana si vede apparire al tramonto un furgone della polizia, ma qualcuno mi ha spiegato che è solo per rifornire il negozio con nuova merce. Il suo braccio destro è faccia d'angelo. Una sorpresa ritrovarmelo come vicino di casa, dopo tutte le avventure che abbiamo vissuto assieme negli anni passati, in quelle notti di festa sulla spiaggia, quando i musicisti improvvisano nuovi concerti sotto le stelle, e noi, ballando al ritmo della cumbia a piedi scalzi. Settembre 2018. Giardino incantato. Resto in un torpore che profuma di fiori che stanno marcendo e mi oriento con il sole per capire che ore sono. In realtà voglio solo stare a guardare il muro come fanno i gatti. Sono già alcuni giorni che sto dando ospitalità ad un gruppo di musicisti. Sono degli amici che vengono dalla capitale. Io mi sono trasferita a vivere nella tenda in giardino, sotto ad una tettoia improvvisata. Loro si sono adattati a dormire tutti assieme, tra macchie e letti nella casa. Ieri sera il cielo era stellato. Era previsto l'ultimo concerto del gruppo nella sala da ballo. Accendono il motore del furgone, io chiudo il cancello del giardino e mi rendo conto che anche i vicini di casa, quelli che vivono oltre il filo spinato, hanno organizzato una festa. Casse di birra, gente sconosciuta che arriva, musica di narco corrido ad un volume selvaggio. Sparano un colpo in aria. Per un momento spero che sia solo un fuoco d'artificio, ma lo sguardo preoccupato dei musicisti mi dice che era davvero un colpo di pistola. Andiamo fino al locale. Quasi ci rilassiamo che tutto era andato bene. Ma il cantante arriva, trafelato, e mi dice che c'è un problema. L'autista del furgone, che era ritornato alla casa per farsi una doccia, si è chiuso nel bagno. Sembra che i miei vicini lo abbiano inseguito fino alla porta e lo stavano minacciando, chiedendogli chi è, che cosa ci stia facendo nel loro giardino, con quella maschera da gangster che indossano quando hanno già bevuto troppe birre e la festa è appena cominciata. La velocità con la quale i pensieri, le parole e le azioni si muovono ad una tale iniezione di adrenalina mi stupisce sempre molto. Corro fino alla casa e non so ancora che cosa farò. Ho mille possibili futuri e mille possibili disastri assicurati che si scontrano in finali immaginari nella tempesta del mio cervello razionale. Quando apro il cancello del giardino ed entro, respiro, come se fossi appena ritornata dal raccogliere violette nei campi. Chiamo per nome l'autista e gli urlo: «Dai, andiamo, che è tardi!» Corriamo come il vento e ritorniamo al locale. Tutto bene. Questa mattina, poi, avevo lasciato i musicisti da soli. Ed io ero andata a nuotare, a galleggiare le mie paure e sciogliermi per qualche tempo nell'acqua. Però così il Civo e Faccia d'Angelo hanno avuto il campo libero per giocare ancora un poco a fare gli Scarface, mostrando anche la pistola ai ragazzi, che sono morti di paura. Sono arrabbiata, confusa, stanca. Non è un buon momento per prendere delle decisioni. 10 settembre 2018. Giardino incantato. Non trovo il bandolo della matassa dei miei pensieri, che si muovono inutili verso strade tutte senza uscita. Che cosa ci faccio qui? Quando il sole sta tramontando, vado a cercare rifugio sulla spiaggia grande. Le ultime coppie di turisti bevono i loro cocktail, decorati con gli ombrellini di carta colorati. Restano sedute sui tavolini di fronte al mare, scuotendo i cubetti di ghiaccio al ritmo delle onde. Sperano, forse, di veder passare un gruppo di balene, o forse un galeone pirata, di quelli che si sono perduti nel corso dei secoli in questo spazio senza tempo. Io cammino fino agli ultimi scogli isolati, cercando sull'orizzonte del mare la sagoma del mio colombre. Ma le ombre si fanno lunghe, rapidamente, e calmano l'incessante movimento dell'acqua, salutando l'arrivo della notte. Una piccola onda lascia un oggetto al suo passaggio, proprio di fronte a me. È una pistola giocattolo, grande come il palmo della mia mano.